24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Credo che i politici romani debbano fare una riflessione profonda su quello che sta accadendo in quella realtà. Non mi pare di poter dire che alcuni del PD romano possano tirarsene fuori allegramente. Per questo ho proposto il commissariamento del PD di Roma nella persona di Matteo Orfini, che è il presidente del partito. Abbiamo commissariato il Partito Democratico di Roma perché nel Partito Democratico ci sono tantissime persone per bene. Naturalmente, probabilmente ci sono state persone che hanno commesso degli errori e che hanno sbagliato. Siamo ragazzi fatti col pennello. Il sindaco di Roma Marino, proprio per verificare tutti gli appalti, incontra il presidente dell'autorità anticorruzione Cantone. Mentre... Ma che ci frega, ma che ci importa? Chiediamo un incontro ufficiale al prefetto perché secondo il Movimento 5 Stelle il comune di Roma deve essere sciolto per mano. Questo non significa che Marino sia coinvolto, ma comunque sono fogli di fico messi dal sistema lì, all'interno del quale il sistema inserisce criminali. La linea dello scioglimento di questa amministrazione è la linea della mafia, è la linea di quei poteri criminali che hanno provato a infiltrare questa amministrazione, hanno provato ad aggredirla perché non faceva quello che loro chiedevano. A noi ci piace, le mani e bene. Roberto Morassut, deputato del PD, una lunga esperienza nell'amministrazione romana, con Rutelli prima, con Veltroni poi come assessore all'urbanistica. Autore di Mala Roma, dal modello Roma al fallimento di Alemanno, e Roma Capitale 2.0, la nuova questione romana. Ecco, onorevole Morassut, intanto buongiorno. La nuova questione romana mi sembra molto vecchia. Buongiorno. Beh, in un certo senso, se pensiamo che alla fine dell'Ottocento lo scandalo della Banca Romana fu di fatto uno scandalo nazionale perché comportava tangenti per pagare le elezioni dei politici nazionali. Insomma, siamo sempre lì. Ma la questione romana ha avuto vari profili nella storia nazionale. No, ma abbiamo... a parte la storia, io voglio parlare di questa questione romana. Lei era uno di quelli che gridava nel deserto inutilmente. Ma che cosa gridava? Beh, l'abbassamento della qualità della vita interna del PD per un verso, ma poi ci vengo. La prima questione è il fatto che noi abbiamo avuto dal 2008 al 2013 una destra predona al governo della città che ha avvelenato la città, le istituzioni, le aziende pubbliche, e per scoprirlo non c'era bisogno di questa inchiesta che in realtà accende dei fari su fatti penali, ma c'erano state altre inchieste e una valutazione, un giudizio su che cosa è stata l'amministrazione alemanno era ormai da tempo noto ai romani. Quello che ha sorpreso e che ha dolore è che ci siano stati pezzi del PD coinvolti in questa vicenda. Ecco, ma pezzi molto grandi, perché per esempio, come dice la procura, il sistema Odven era un sistema molto preciso, nel senso che lui era il libro paga di Salvatore Buzzi, che era il braccio destro di Carminati. Lei l'avrebbe mai immaginato? Ma Odeven io l'ho conosciuto quando aveva lavorato al gabinetto del sindaco in Campidoglio, e poi dopo il 2008 l'ho perso di vista. Ma insomma, è sorpreso? Beh, molto. Per quanto riguarda Luca Odeven, sicuramente molto non avrei mai immaginato un coinvolgimento in una vicenda come questa. Ecco, ma il coinvolgimento in generale del PD mi sembra abbastanza significativo. Sì, in realtà dobbiamo fare un esame, io ho cercato di dirlo da tanto tempo, sulle cause per le quali la qualità della vita interna del PD si è così abbassata. Me ne dica tre di cause. Guardi, il fatto che si è... O anche una sola, ma grave. C'è stata sostanzialmente una resa della politica e un aumento patologico dell'elemento del potere attraverso un esorbitante ruolo di quelle che io non considero delle correnti, perché le correnti in un partito anche hanno una loro dignità, ma delle tribù, ecco, che però sono impossessate del partito. Vabbè, non è poco, mi sembra una cosa gravissima quella che dice. Senta, le dico, Marianna Madia, che è l'attuale ministro della pubblica amministrazione, come lei, forse anche più di lei, aveva gridato dicendo, leggo testualmente, al livello delle primarie: a livello locale, e parlo di Roma, dice la Madia, ho visto, e non ho paura di dirlo, delle vere e proprie associazioni a delinquere. Ma se n'era accorta solo lei? No. No, in realtà credo che se Marianna Madia avesse avuto degli elementi penalmente rilevanti sarebbe corsa alla procura. Beh, naturalmente. Credo che si riferisse come io mi sono riferito puntualmente dal 2008 in poi al fatto che c'era una vita interna malata e dove dominavano delle tribù che hanno avvelenato il quadro interno. Pensiamo soltanto al tesseramento, che era la cosa più evidente. L'adesione libera e individuale al partito era ormai compromessa e ad ogni congresso il tesseramento diventava un pallone gonfiato. Senta, comunque la Madia è stata molto attaccata e rimasta sola. Adesso si capisce perché. Sì, certo, questo è evidente. Siamo rimasti tutti un po' soli. No, in queste certo, è per questo che parlo con lei. Infatti. In queste battaglie, sì, sì, è evidente che chi ha, diciamo, in qualche maniera fatto una battaglia politica in questo ha anche pagato il prezzo di una marginalizzazione politica. Senta, ma Rutelli adesso dice azzeriamo tutto, facciamo una giunta con i 5 Stelle. Lei è d'accordo? Ma no. Perché? Penso che Marino debba andare avanti. Con un'operazione di risanamento del Partito Democratico e delle forze che lo sostengono, un risanamento che non può limitarsi però soltanto alla esclusione delle figure compromesse. Beh, fino a nuova... Anche perché il giudizio del segretario con il commissariamento mi sembra un giudizio politico-etico del tutto il gruppo dirigente sostanzialmente. Sì, però nel PD domani ci sono tante riserve democratiche che sono sono abbandonate, hanno lasciato la strada della militanza diretta. Bisogna richiamarle in campo aggredendo i nodi formali e strutturali di un malfunzionamento, cioè come si fanno le tessere, i controlli sui finanziamenti elettorali, l'anagrafe patrimoniale degli iscritti, verificare un eletto, un dirigente, un amministratore quando entra in un'istituzione, che vita fa e come esce alla fine e che vita fa quando finisce il suo mandato. Ci sono delle regole che vanno inserite negli statuti e secondo me va anche fatto qualche provvedimento di legge per regolare la vita dei partiti. Senta, Matteo Orfini però, nuovo commissario, dice che il partito va rifondato. Rifondato cosa vuol dire? Tutti nuovi? Secondo me, io ho questa opinione della rifondazione. Le fondamenta di un partito sono sono la base associativa di un partito, cioè come ci si iscrive, la regolarità delle iscrizioni, la regolarità dell'espressione del voto nelle primarie e quindi a partire da lì controlli, regole, statuti, formalizzazione di nuove forme e di nuove regole. Regole ce ne sono tante, ma poi non vengono rispettate e quindi di lì nascono i guai. Ma Matteo Orfini non c'erano. Matteo Orfini, secondo lei è l'uomo giusto? Beh, è il presidente del partito. No, non le faccio un'altra domanda. Lei è un politico romano molto, molto consapevole. Le chiedo se Matteo Orfini è l'uomo giusto, non se è il presidente del partito, che lo so. Può essere l'uomo giusto, credo che lo sarà se svolgerà il compito come lo ha annunciato, cioè ripartire dalle fondamenta, ridare fiato alla politica in questo partito romano. Quali sono le sue caratteristiche specifiche per essere l'uomo giusto? Beh, è quello di riportare la discussione del partito di Roma sul terreno della politica, ripeto, a parlare della città, delle cose, dei contenuti e liberare questa vita interna fatta soltanto di queste bassezze. Io confido che Orfini sia in grado di farlo. Onorevole Morassutto, ma intanto dimettersi da tutti i consigli di amministrazione di nomina politica non sarebbe un gesto da fare? Ma certo, il Partito Democratico avrebbe dovuto uscire già da 4 o 5 anni da tutti i consigli di amministrazione. Allora potrebbe essere la prima cosa che deve fare Orfini? Ah, credo di sì, che ci voglia un allontanamento, in questa fase un allontanamento della politica dalle strutture gestionali e amministrative, controllando però anche che chi viene messo e che magari non è un politico non sia legato a delle filiere lobbistiche. Ah, naturalmente, ma il peggio, secondo lei, che conosce bene Roma, è già uscito o ci sarà dell'altro, onorevole Morassutto? Questo non lo so, da quello che pare di capire questa inchiesta avrà un seguito. Quello che è certo è che, secondo me, questo è un aspetto forse il più inquietante di una vita intossicata della città che è diventata pervasiva. Senta, ma onorevole Massutto, un'ultima domanda, ma se tutto è vero, questo è vero, non sarebbe stato in qualche modo per voi che eravate contro e consapevoli intanto andare in procura? Ma se ognuno di noi avesse avuto degli elementi di fatto, certamente ci saremmo andati dalla procura. Quello che abbiamo fatto è stata una denuncia politica, un riflesso politico di queste questioni che ci apparivano evidenti. Certo. Senta, Mario Secchi, ha una domanda per lei. Buongiorno onorevole. Senta, il gruppo Roma Capitale ha 16 società e comprese le quote di minoranza 6,5 miliardi di fatturato. Che cosa si fa con questa, con questo Moloch? 38.000 dipendenti, cioè tutto pubblico, per forza? Ma no, non necessariamente. Intanto da tempo si doveva e si dovrebbe adottare una razionalizzazione di questo sistema. Mm. Ho visto che Marino aveva iniziato un percorso per dismettere una parte di queste società e avrebbe fatto e farebbe benissimo a farlo. Poi naturalmente il rapporto con il privato è un rapporto importante che naturalmente deve essere regolato, perché non è che diciamo se un corpo sociale è malato, cioè che cosa ci racconta questa vicenda? Ci racconta di un sistema di lobby e di interessi criminali e non che hanno schiavizzato la politica. Va bene. Quindi il problema è anche capire a quale mercato ci si rivolge. Senta, si aprono le porte al mercato con quali regole? C'è una domanda di Pietrangelo Buttafuoco, rapidissimo perché siamo in finale. Buongiorno. Buongiorno. Mai avuto conversazioni con Buzzi, ha detto ieri Marino a 8:30, negando di avere avuto conversazioni quindi col capo della cooperativa 29 giugno. Poi però spuntano le fotografie. La mia domanda ovviamente è politica, ma Marino ci fa o ci è? Sono politico, non so, ma probabilmente, guardi, adesso nella sostanza io penso che il sindaco sia stato nella resistenza a questo sistema malato un elemento di tutela. Potrà non aver ricordato di aver avuto un incontro, questo non so, bisognerebbe chiederlo a lui, no, ma insomma perché la sostanza resta che comunque è stato un elemento di resistenza e di contrapposizione a tutto questo. No, perché dico, Alemanno risulta indagato, ma lui a questo punto è un incapace ingiudicato. Va bene. Mi pare un giudizio francamente ingeneroso. Vabbè, basta camminare per Roma. Vabbè, è il giudizio di Pietrangelo Buttafuoco. Grazie onorevole Morassutto. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ieri si è tenuto il Consiglio di competitività dell'Unione Europea, dove si doveva affrontare e soprattutto risolvere il problema dell'etichettatura e del marchio Made in. Presidente Ferrarini, adesso la proposta del regolamento è bloccata al Parlamento Europeo, sempre dai tedeschi e dai nordici? Sì, assolutamente. Adesso è al Consiglio. Al Consiglio di turno della Presidenza di turno. Beh, cioè la nostra. Tocca a noi la settimana prossima ci sarà il Consiglio Competitività il 4 di dicembre, dove da lì o se ne viene fuori o se ne viene fuori. Quindi il 5 dicembre lei è qua e valuteremo quello che è capitato. Grandi applausi o grandi urla. Insulti, va bene. 4 dicembre, se il Presidente del Consiglio non mi porta a casa impacchettato il Made in, io e lei il 5 di dicembre ci vediamo e qui viene fuori mondiale. Un casino mondiale. Va bene, allora sarà sicuro. Lisa Ferrarini, siamo al 5 dicembre, vicepresidente di Confindustria con la delega all'Europa sul Made in. Buongiorno, 5 dicembre, ma non è capitato nulla. Adesso il casino che aveva promesso quale sarà? Buongiorno a tutti. Che dispiacere. Oggi è una giornata tremenda, una giornata allucinante. Niente, non è successo niente. È successo di peggio. È successo che è stato posticipato il problema, la discussione alla presidenza Letta. Come sempre. Quindi vuol dire buttarla violentemente nelle ortiche. Palla in tribuna. Il problema è questo. No, sa cos'è il dato incredibile che mi amareggia da matti? Sì. E che bisogna capire se questa Unione Europea funziona, quello volevo chiederle. Questo è il vero problema, perché certo, se noi il 15 di aprile abbiamo avuto un voto in plenaria al Parlamento di Strasburgo con 4 voti su 1 a favore, perché sono 435 voti su 130 contrari, cioè io voglio dire, e il Parlamento europeo viene votato in maniera assolutamente democratica da tutti i paesi che compongono l'Unione Europea, però poi non capita niente. Succede che la che i governi che rappresentano i vari poteri internazionali decidono che questo voto qui non conta niente, allora vuol dire che c'è qualcosa, vuol dire che l'Europa ha un problema serissimo di identità. C'è da pensare a qualcosina, perché non è possibile una cosa di questo. Ma vede, il ma grande forse, rammarico scusi, mio scusi, prego. Presidente Ferrarini, forse vuol dire che nell'agroalimentare l'utilità dell'Europa è solo per la Germania e per i paesi nordici, punto. No, qui stiamo parlando, sì, non è agro, qui mi prego, del made in, il made in è escluso l'agroalimentare. Sì, no, giusto, scusi. No, per il made in. Per il made in esiste, no, vede, sa cos'è? Che ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione che questa Europa è controllata violentemente dalla Germania e che l'Italia purtroppo è talmente debole che non riesce neanche ad aprire un dibattito. Senta, non dico ad imporsi, e quindi questa è la cosa che mi rammarica più di tutti. Guardi che io ieri... Ma lei ha parlato col presidente Renzi di questa sconfitta bruciante? No, io tra l'altro presidente Renzi l'altra sera l'ho seguito in una trasmissione televisiva e ha parlato anche di made in, e, insomma, era, no, non era ottimista, perché dire ottimista in questo momento, cioè anche noi non eravamo partiti tranquilli, ovviamente, perché direi una bugia, però insomma ha detto: ma la Germania sta tentando di affossarci il made in, e quindi insomma era il giorno prima, era il giorno prima di quando c'è riuscito la, esatto, Germania, eh? Insomma, appunto, Italia-Germania 4-3 è capitato una volta sola, non capiterà mai più. Lo so, però vede, c'è un problema di fondo, Minoli. Io non mi sento seconda la Germania, e l'Italia rappresenta dei distretti industriali meravigliosi, rappresenta una forza industriale non indifferente che sta passando sotto le fosse gaudine e lo stesso continua a tener botta. Ecco, ma Presidente Ferrarini, mi dica una cosa. È stata l'ennesima doccia fredda, congelata, ghiacciata, violenta che l'industria si è presa. Guardi, lei aveva promesso un gran casino per il 5 dicembre. Guardi, se fosse capitato, cosa farà? Non lo so. Io le dico anche che ieri ho passato la giornata al telefono, giuro, ma guardi veramente, con una coralità di telefonate delle imprese, di tutte le nostre territoriali, del mondo imprenditoriale da nord a sud. Confindustria reagirà in qualche modo? Cosa farete? Ma guardi, reagiamo, noi non siamo il governo che deve reagire, perché sono loro che rappresentano il nostro paese all'Unione Europea, e questo io sono francamente molto molto, ecco, preoccupata. Cioè, qui, lo sbilanciamento è fortissimo, l'Italia non è seconda a nessuno. Senta, questo bisogna che lo noi so, ce ma lo sappiamo, in testa, diciamo, ce lo diciamo fra di noi. Qualcuno non lo sa, evidentemente qualcuno non lo sa. Senta, o qualcuno dice di fare voce grossa, poi dopo si arriva là ed è finita la storia. Guardi che ieri la commissaria polacca è stata fortissima, perché la commissaria polacca ha fatto un passaggio su questo argomento qua, con un guardi che è stata molto costruttiva, ha avuto un approccio senza assolutamente risultato. Positivo. Senza risultato però. La presidenza di turno era prima, nostra. Quindi siamo noi responsabili di questa cosa. No, diciamo. Però sa, io normalmente da imprenditore le responsabilità me le prendo in prima persona. Allora, il suo giudizio sulla presidenza italiana in Europa su questa vicenda è negativissimo. È negativissimo. Sì. Senta, le faccio sentire per chiudere questo spottino. In Europa ogni anno oltre 50.000 infortuni di bambini sono causati da giocattoli. Per noi noi la vera garanzia è il marchio CE. Per la tutela dei nostri bambini assicuriamoci sempre che ci sia. A che gioco giocheremmo senza l'Europa? È uno spot che va in onda tutti i giorni. Per i giocattoli il marchio è un valore, per il cibo no. Ma così? Per l'Italia, insomma. Per l'Italia, per il, per la gioielleria. Vabbè, per solo per i giocattoli. Per il legno, per tutto il mondo dell'arredamento, e così, e si vede che non siamo capaci a difenderci. Grazie, no, Presidente Ferrarini, così è andata. Aspettiamo altri 14 anni per la prossima, siccome mi dicono che comunque alla fine il semestre di presidenza non conta niente, non lo so, chi vedrà. Vabbè, tra 14 anni ci risentiamo, il 5 dicembre di fra 14 anni. Esatto. Va bene, grazie. Mix 24. Settimana, eh? Perché oggi nei vagoni c'erano quelli che si prendono d'angoscia per il Natale in arrivo, perché è la festa dell'incontro, del ritrovarsi, però oggi in metropolitana tanti avevano l'espressione rincagnata di chi fa i conti con se stesso, perché comincia il primo ponte col fine settimana e ogni solitudine si sente atomo scisso per sempre. Ognuno, lo diceva il Perigeo, ha un blues da piangere, ma una nenia metropolitana nelle giornate che precedono il Natale può essere straziante più che struggente, e l'anno intanto che sta per concludersi, e sono proprio gli ultimi grani della clessidra, se ne scivola via veloce, e sono i grani della solitudine. Mario, butta fuoco, è così, un po' crepuscolare, poetico, dolce. Signor, è cattivo, è dolce. Ci vuole una pazienza. Sono stato cattivo forse. No, quando? Quando no, nella vita? No, perché la foto c'è. Adesso vai con le bolle. La foto c'è. Andiamo. Guardare un po'. Le piace? Questo è un grande pezzo degli Yes. Oggi ho fatto due scelte un po' retro. Lo sentirete la prossima tra un po', però è tutto molto interessante. Allora, parliamo di Europa? Allora, ieri la BCE, hai visto Giovanni, no? Certo. Insomma, non ha deciso nulla, l'avevamo anche detto ed era facile immaginarselo. Troppe divisioni nel consiglio della BCE per prendere una decisione unanime sul quantitative easing, cioè sull'acquisto dei titoli di Stato, semplifichiamo così. Certo. Bisognerebbe che si cominciassero a leggere i testi, i discorsi, gli speech, si direbbe, sì, di Sabine Lautenschlager, che è la consigliera merkeliana a Francoforte, che ovviamente non è d'accordo sulla strategia. Appena sentita una, adesso ne sentiamo un'altra, del cosiddetto stampare moneta. E c'è un discorso pubblicato sul sito della Banca Centrale, anche non è difficile da trovare, sarebbe da leggere, dove lei dice una cosa secondo me significativa. Lei dice: non siamo la Fed e tutti i paragoni con la Fed sono inutili. Punto. Che è un punto, no? È abbastanza chiaro. Ora tutti si chiedono cosa farà Draghi. Alla fine, secondo me, ma diciamo secondo osservatori più dentro di quanto lo sia io, acquisterà titoli di Stato. Non all'unanimità, l'ha già anticipato ieri, no? Che non serve... lo farà lo stesso. Esatto, alla fine lo farà lo stesso, perché le cose non vanno bene, o se volete la diciamo tutta, vanno piuttosto male, e il prezzo del petrolio, avete visto, è crollato, ha effetti molto distorsivi della situazione. Certo. Avrà un impatto anche sui prezzi, cioè è più, ci sarà altra deflazione in arrivo. Segnalo solo, consiglio la lettura, diciamo, di che cosa? Della storia dell'Europa tra il 14 e il 45, le due guerre mondiali. Secondo me è un ciclo che su alcune cose si avvicina notevolmente a quello là. Forse non ci sarà la guerra, perché la stiamo combattendo in realtà in altro modo. Si è raffinata anche la guerra. Purtroppo, domani. Domani a Roma ci sarà la proiezione del documentario, proprio il giorno giusto, Giulio Andreotti, il cinema visto da vicino. Sara, chi ha intervistato? C'è Roberto Cicutto, amministratore delegato dell'Istituto Luce Cinecittà. Dottor Cicutto, ma alla luce delle indagini e degli arresti che hanno travolto il comune di Roma, Giulio Andreotti direbbe il potere logora chi non ce l'ha? Avendo visto il film che inizia con una sua citazione dal film Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde, penso che direbbe che l'Italia, oltre che di corrotti, è fatta di molti Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Il regista di questo documentario, Tatti Sanguinetti, dice che Andreotti ha salvato il cinema italiano, cioè... Lo si conosce tutti per la famosa battuta "i panni sporchi si lavano in famiglia", riferendosi al film Umberto D. Ma la tesi del film, e lo dimostrano i fatti, è che per 5 film che ha veramente censurato ne ha fatti fare 5.000. Ma che cosa ha fatto in concreto? Beh, se pensiamo che la legge su cui ancora si basa il finanziamento al cinema era sua, si può pensare che sia invecchiata, ma certo nessun altro ne ha fatta una migliore, ci stiamo muovendo un po' adesso. Quindi in concreto da sottosegretario già nel 47 ha rimesso Cinecittà in piedi perché tornasse ad essere un centro di produzione, e poi via via ha sicuramente sostenuto molte politiche industriali, oltre che di appoggio agli autori. Dottor Cicutto, ma qual era l'idea di cinema allora che aveva Andreotti? Da quello che si evince dal documentario, sicuramente è una visione moderna di un'industria culturale, non solo di un patrimonio culturale. Dottor Cicutto, ma chi ha sostenuto il progetto di questo documentario? Io ho trovato più di 45 ore di interviste fatte da Tatti Sanguinetti ed Andreotti più di 10 anni fa. Era stato sostenuto dall'allora direttore generale del cinema Gaetano Blandini, e se oggi ha la luce, c'era grazie ad un altro direttore dello spettacolo, lo spettacolo dal vivo, che è Salvo Anastasi, un personaggio che ha fatto 60 anni di vita politica come Andreotti. Certo. Non può mancare da un archivio sulla storia d'Italia. L'abbiamo riesumato, rimontato, e oggi ha una prima parte, che è quella che presentiamo sabato, è andata a Venezia, e presso una seconda parte più politica, ma molto forte e molto bella. Oggi, per raccontare un'Italia che riparte, che film bisognerebbe fare? Racconterei una grande saga familiare che tira fuori tutto il bello che c'è in questo paese, tutte le deviazioni e anche tutte le possibili soluzioni finali. Ci vogliono i lieti fini hollywoodiani? No, nel modo più assoluto. Direi che è un po' la storia di sempre, che è fatta di mali, di beni, di gente che finisce bene, di gente che finisce male nell'ambito della stessa famiglia. Dottor Cicutto, ancora una domanda. Quali sono i prossimi appuntamenti dell'Istituto Luce, a parte il seguito, che non è poco, del documentario su Andreotti? Quest'anno abbiamo compiuto 90 anni, intanto porteremo in giro la mostra sull'immaginario italiano, ci sarà, grazie a un'iniziativa del ministro Franceschini, l'apertura di un museo dell'immagine dell'Italia all'interno di Cinecittà. Penso che la produzione di documentari che valorizzi il materiale dell'archivio storico, ma lo attualizzi, sia una delle cose più importanti che possiamo fare. È tornato il nostro Enrico dalla Grecia e dice: bella la Nenia metropolitana. Grazie. Alessandro invece chiede per favore il nome del gruppo, Mario. Yes. On a Love Lonely Heart, è un pezzo, è un grande loro hit. Tu sai che a me, certo, la musica piace. Lo so, piace. Senti, la tua bolla piacciono tutte e due. Pubblici diversi, una bella sintesi. Yes. Questo, senti qua, questi sono gli America. Allora, America e andiamo in America. Solo per segnalare che oggi dovrebbero uscire i dati sull'occupazione, si attendono 200.000 posti di lavoro in più, il tasso di disoccupazione dovrebbe restare sotto il 6%, che significa il minimo degli ultimi 5-6 anni. Tutto questo accade perché? Perché l'economia americana è flessibile, il sistema finanziario è pieno dei soldi, probabilmente anche drogato, se volete, anche pure il probabilmente, il dollaro è debole ma non troppo, la banca centrale è al servizio del sistema. Tutto questo funziona nonostante Obama, bisogna segnalare pure questo. E segnalo infine che c'è disponibile il rapporto dell'ILO, che è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. È molto importante leggerlo perché si vede che le nostre buste paga, anzi le stanno vostre, crollando. Le vostre per chi ce le ha, noi siamo lavoratori autonomi e indipendenti, e sono ferme al 2007, ragazzi, anzi si guadagna pure meno. Meditate. Salmino, meditate, meditate. Marca e sottomarca. Poi uno può dire c'è contratto e contratto, è finito il tempo in cui c'era. Radio Tirana trasmette musiche. Finito, finito questo tempo, adesso dal paese delle aquile arriva la TV italiana, però a costi contenuti, è il canale Agon. E siccome c'è marche sotto marche, c'è contratto e contratto, facciamo un piccolo excursus storico, perché in principio c'era un contratto. Questo contratto con gli italiani, che è tra Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre di un certo anno. Ecco, era il contratto tra Silvio Berlusconi e gli italiani sotto la regia di Bruno Vespa. Adesso c'è ben altra regia, ben altra regista, e la signora, la diva della grande bellezza, Sabrina Ferilli, che furoreggia dal paese delle aquile e da Agon Channel, e lì trasmette le confessioni, i propositi, le promesse, i pensieri dei protagonisti di questo tempo. È in viaggio, è partito stamattina, poi stasera andrà in onda. Chi? Un ospite particolare, un ospite chi? Straordinario, ti do l'identikit. Chi? Fammi dare l'identikit. Allora, è stato sindaco di Roma, ma non è Alemanno e non è neppure Veltroni. E lui è il vero Renzi senza necessità di essere Renzi. Brutelli. No? È l'ideatore di un PD senza necessità di avere il PD. Brutelli. No, è il padrone dell'immaginario ed è il candidato migliore, più smagliante, splendente. Brutelli. Non è Rutelli, insomma, il candidato Rutelli? Ideale per la presidenza della Repubblica. Chi può essere? No. Sarà Veltroni. È Walter Veltroni. Walter. Hai visto? No, Giovanni, non ci posso ci arriva subito. Signori, però. Allora. È Walter Veltroni, no, è partito stamattina dall'aeroporto di Ciampino con un aereo che lo sta portando a Tirana. Karen Blixen, la mia Africa. Non scherziamo, c'era una promessa, non bisogna mantenerla. Cioè, E tu che ne sai se non la mantiene quella? Comunque, la signora Ferilli gli ha sottoposto, stasera, tutta una serie di promesse. No. E allora, però, siccome un nostro amico Rutelli ne vuole formulare una, non possiamo non farlo sentire. Giovanni, mi permetti? Ma prego, certo. Prego, è con noi al telefono. Aiace Telamonio, buongiorno. Allora, cosa mi deve dire Aiace? Grazie, grazie, grazie. Traduco io, che con le mie scuole alte riesco a tradurre anche. Aiace Telamonio vuole una promessa. Una sola cosa da Walter Veltroni, che gli porti? Com'è che diceva? Ah, ecco, sì, i polpacci di Goffredo Bettini, che è il regista del politico del PD a Roma, e poi? Ah, e poi dice anche la panda rossa di Ignazio Marino, tanto lui ormai che ci deve fare? Invece Aiace ci porta a spasso le cagnette, dove? A Tirana! E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre... X24 Canzoniere rapido. Veggio negli occhi della donna mia un lume pien di spiriti d'amore, che porta uno piacer nuovo nel core, sicché vi desta d'allegrezza vita. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666. Amelia da Ragusa, se la indovini chiamaci. E oggi, come tutti i venerdì, c'è la nostra porta, la posta del cuore. Scriveteci a mix24@radio24.it. Massimo da Milano: a guardarvi siete tutte belle, pensavo osservando l'ennesima 30-40enne in tiro al bar e poi al semaforo, in ufficio, al ristorante. Ma dove sono finite le brutte? Conduco un'esistenza mediamente libertina da quasi un cinquantennio e vorrei denunciare un fatto grave. Tra apparenza e sostanza non c'è più aderenza. Diciamoci la verità. Quante volte una terza abbondante si è rivelata una seconda scarsa? Imbottiture, push-up, calze contenitive, panciere. E le delusioni tattili sperimentate con le protesi? Poi c'è il trucco. Achili. Ormai al primo appuntamento andrebbero portate all'aeroporto e passate sotto lo scanner. Allora a queste signore, alle loro continue lamentele, io dico... Provate voi ad andare a letto con una persona e a svegliarvi accanto a un'altra. Poi vediamo chi resta e chi scappa, chi può parlare di onestà e di narcisismo. Perché bellezza è verità, verità è bellezza. Questo solo sulla terra sapete, ed è quanto basta. Che mi dice Buttafuoco? Pietrangelo, attenzione, bellezza è verità, verità è bellezza. Non è che Massimo ti ha fatto il canzoniere? Cosa gli rispondi? Con Keats, perché non è Byron, è Keats questo. Allora, però io, senza offesa per Massimo, che a questo punto io chiamerei Don Massimo, perché c'è un punto dove dice che conduco un'esistenza mediamente libertina da quasi un cinquantennio. Ora, signori miei, se uno conduce una vita libertina da quasi un cinquantennio, presupponendo che non abbia iniziato alla nascita, immagino che l'esistenza libertina comporti delle fatiche terribili. E le terribilità devono essere raccontate per esteso, non solo quelle al femminile, perché giustamente avranno anche il diritto di assecondare l'antica regola secondo la quale quanto suffissa, quanto sono fessi gli uomini che vanno dappresso alle femmine. E le femmine questo fanno, fare fessi gli uomini attraverso stratagemmi, meccanismi, protesi, cosmesi. Però se lui conduce una vita libertina da quasi un cinquantennio, non è che poi lui che si fatica. Perde tra le pillole. Questa è una chiave. È una chiave, tu lo sai, la buon'anima di Umberto Scapagnini, quando inventò le pillole famose e le presentò a Catania, dice: che succede? Ma ti dà un'esuberanza sessuale di almeno 3, 4, 5 ore. E quello disse: ho capito, un calmante allora. Ciao, ciao, very well, com'è che? Troppo very well, troppo se ci fosse. Well. The way you wear your hat, the way you sip your tea. Caro Maurizio, Sinatra devi ascoltare, perché oramai questa tua lamentela, no, delle 30-40enni che sono solo apparenza, e con questa lettera accarezzi l'ambizione di un pensiero profondo. Invece, se tu ascoltassi Sinatra, diceva che cosa? Che lui amava il modo in cui si portava il cappello, il modo in cui lei gli sorrideva. Perché, Maurizio, è il modo che fa innamorare. Un anno fa, esattamente un anno fa, moriva Nelson Mandela. Oggi, dopo il GR, raccontiamo la sua vita incredibile. Io, Nelson Olisasa Mandela, giuro di essere fedele alla Repubblica del Sudafrica e che Dio mi aiuti. Mai, mai e mai più dovrà accadere che questo splendido paese veda nuovamente uomini oppressi da altri uomini. Ecco, dopo il GR, a cura di Marina Milone, racconteremo la storia di Nelson Mandela. Per finire, musica. Stancami e parlami, abbracciami, guarda dietro le mie spalle e poi racconta e spiegami tutto questo tempo nuovo che arriva con pettinato, ho proprio l'aria di un campo rifiorito e tu sei il genio scaltro della bellezza che il tempo non...